2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei. Zero, 2024 di Enrico Pagliarini. Ci sono alcuni ascoltatori che ci hanno scritto nelle ultime settimane dicendo: ma nel 2024 come cambierà il titolo della vostra trasmissione? Beh, magari già un po' prima cominceremo a pensare ad una soluzione, oppure una soluzione definitiva potrebbe essere intitolarla 3024, così per altri 1000 anni non abbiamo problemi, e saranno poi problemi dei posteri, diciamo così. Benvenuti o bentornati, questa è la puntata del 15 e 16 di marzo 2014. 2024 è il programma di Radio 24 dedicato alla tecnologia. Ogni settimana cerchiamo di capire, assieme ai nostri esperti, come la tecnologia ci cambia la vita. Iniziamo questa settimana da una notizia che riguarda la cosiddetta governance della rete internet. Può sembrare un concetto lontano da noi, è un tema di cui si discute molto, ma ci riguarda molto da vicino. Perché da come è gestita la rete internet, dalle regole che la guidano a livello mondiale, dipende, non tutto, ma insomma dipendono molte delle cose che riusciamo a fare o non fare sul nostro computer, sul nostro smartphone, sul nostro tablet. Allora, la governance di internet è sicuramente un tema piuttosto variegato, complesso, ci sono vari livelli, non ultimo quello nazionale, e in alcune nazioni internet è sicuramente una cosa diversa da come la viviamo noi. Pensate ai paesi dove ci sono delle dittature che bloccano una serie di cose, come la Cina ad esempio, che non permette di discutere di certi argomenti. Però, quindi alcune cose dipendono dalla gestione a livello internazionale, alcune cose naturalmente dipendono da quello che succede a livello locale. Allora, tra le cose che vengono decise a livello globale c'è l'assegnazione dei nomi a dominio: radio24.it, ilsole24ore.com, insomma tutte queste cose. Tra l'altro ce ne sono anche di nuovi che sono usciti negli ultimi anni, anche in questo periodo stanno le autorità che controllano questo, i domini, stanno lanciando nuovi nomi a dominio, nuove estensioni. Allora, tutto ciò è deciso da una società che si chiama ICANN, che sta a Los Angeles e che è controllata dal governo americano. Alla fine della settimana, venerdì, il Dipartimento del Commercio americano ha detto che entro il 2015 aprirà il controllo ad altre realtà globali. Bisognerà discutere, naturalmente. La notizia arriva nella settimana in cui si festeggiano i 25 anni della nascita dell'idea del World Wide Web, e quindi è sicuramente una notizia importante anche per il momento in cui viene annunciata. Poi bisognerà vedere quali saranno le decisioni di questa nuova governance della rete internet, sarà molto interessante seguirlo. Bisognerà vedere anche quanto le aziende, le grandi aziende della rete internet saranno coinvolte, e quindi seguiremo il tema. No, dicevo, si sono festeggiati questa settimana i 25 anni dalla nascita della idea, non del World Wide Web, del WWW vero e proprio, del web, ma dell'idea. Allora, internet ha 45 anni, il World Wide Web 25, quindi è arrivato un po' dopo, eh? A volte confondiamo le due cose, ma mentre internet è l'infrastruttura di trasporto dei dati, il web, il WWW, il World Wide Web, è uno dei servizi che sono stati costruiti sulla rete internet. È il modo con cui noi visualizziamo documenti con immagini, video, audio, eccetera, eccetera, e lo vediamo attraverso i web browser, quindi questi programmi di navigazione, quindi Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari, eccetera, eccetera. Pensate, che ne so, all'autostrada. L'autostrada è l'infrastruttura di trasporto, e poi nell'autostrada ci sono vari veicoli, camion, automobili, pullman, motociclette che transitano. Allora, il web, per semplificare molto, è uno di questi automezzi che circola sulla rete internet. Sicuramente è forse l'espressione più popolare di internet, però quando, che ne so, facciamo una videochiamata con Skype, quella è un'altra cosa, quello non è web. giusto per chiarire le cose a chi magari non conosce molto bene la rete. Allora, il concetto di WWW, di World Wide Web, è stato presentato per la prima volta il 12 marzo 1989, quindi 25 anni fa, da Tim Berners-Lee, un informatico britannico che lavora al CERN di Ginevra. Poco dopo è diventata una realtà, soprattutto, prima di tutto, al CERN di Ginevra, e poi è stata messa a disposizione dell'intero mondo. E sicuramente il web, questa rappresentazione della rete internet, è forse stata l'invenzione che ha decretato il grande successo e la grande diffusione della rete internet in tutto il mondo. Quindi è stata sicuramente una ottima intuizione. Allora, Tim Berners-Lee ha lanciato un messaggio sulla rete in questi giorni, dove dice alcuni concetti importanti e dove fa anche un invito. Together we have built an amazing web, but we still have a lot to do so that the web remains truly for everyone. Come back soon to web@25.org and happy 25th anniversary of the web. Dice Tim Berners-Lee in questo videomessaggio che è stato realizzato in occasione dei 25 anni del World Wide Web: insieme abbiamo realizzato una rete meravigliosa, ma c'è ancora molto da fare affinché il web rimanga veramente per tutti. Tornateci a visitare, buon anniversario del web. Il sito che indica e che vi indico se volete approfondire questo tema è web@25.org, un sito internet realizzato proprio in occasione di questo festeggiamento dei 25 anni della rete internet. Allora, prima di questo anniversario, qualche settimana fa avevo incontrato per pochi minuti, 10-15 minuti, Tim Berners-Lee, che è appunto l'inventore del World Wide Web. È stato un incontro sicuramente emozionante. Abbiamo parlato di varie cose, soprattutto di neutralità della rete, che è il principio base che ha fatto diventare la rete quello che conosciamo oggi, soprattutto nei paesi occidentali. E gli ho chiesto se la crisi economica in qualche modo ci ha distratto un po' dal dibattito sulla neutralità della rete, anche se è vero, in alcuni ambienti si continua a discutere, ma forse questo fatica a diventare un tema popolare. Può darsi che la gente sia distratta su questi principi a causa della situazione economica. But I think in general, but now if I look around, there have been. In generale direi che se mi guardo in giro vedo molta preoccupazione su questi temi, a causa di molti governi che riducono o minacciano di ridurre i diritti fondamentali su internet, il diritto di collegarti con chi vuoi o il diritto di usare internet senza essere spiato, ad esempio. Ci può essere la crisi, ma vedo che la gente è preoccupata di preservare questi diritti fondamentali che abbiamo avuto finora. To preserve the fundamental rights that they have as a human being, as ever. E sentiamo che cosa dice Tim Berners-Lee sulle applicazioni, sulle app. Allora, noi ci siamo abituati per una ventina di anni al web e poi abbiamo cominciato ad usare anche le app su smartphone e tablet. Ma mentre il web è indipendente dal sistema operativo, è neutrale, diciamo così, perché possiamo guardare la stessa pagina web, lo stesso sito internet da qualsiasi computer, indipendentemente anche dal programma che utilizziamo per navigare sulla rete internet. Beh, per le applicazioni non è così, dipendono da un sistema operativo. Se cambiamo smartphone e usiamo un altro sistema operativo, beh, dobbiamo riscaricare, ammesso che ci siano per quell'altro sistema operativo, tutte le applicazioni. Dipendono da regole che vengono decise da poche aziende, e anche solo, pensate, per mettere a disposizione un'applicazione al pubblico bisogna passare, spesso, non sempre, ma diciamo in buona parte dei casi, dall'approvazione di un app store, mentre invece con il web siamo liberi di creare molto facilmente, molto semplicemente, magari un blog personale, un sito, in modo molto, molto veloce. Ecco che cosa dice Tim Berners-Lee. I think a lot of people are worried about that now. If you've got information in an app, if you put your magazine in an app, it doesn't have a URL. Penso che molte persone siano preoccupate di questo. Se tu hai le tue informazioni in un'app, se tu metti il tuo magazine in un'app, beh, non c'è un indirizzo web che io possa mettere tra i preferiti. Non posso fare mi piace o non mi piace. Non posso discutere di quello, perché non lo posso twittare. non lo posso mettere nel mio blog. And that means that when that's then that means that they are part of the universe of discourse in the world. Se le cose sono sul web, allora hanno il loro indirizzo. Significa che sono parte di una discussione universale. Sono parte di una conversazione dell'umanità. If they don't have those URLs, if they're not on the web, then they are lost. Se non sono sul web, sono informazioni perse. So if you're a developer and somebody Se siete uno sviluppatore, dovreste cominciare a fare web app. Le applicazioni web sono la strada da percorrere. Web applications are the way to go. Thank you. Okay. Thank you very much. La prossima settimana, il 18 di marzo, verrà reso pubblico e disponibile il rapporto del CLUSIT, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, e noi tra poco parleremo di sicurezza informatica con una intervista molto interessante, approfondita sulla situazione italiana e sulle principali minacce che aziende, soprattutto, e anche persone dovrebbero tenere d'occhio. Adesso parliamo di come la tecnologia può essere usata nelle situazioni di emergenza. È un esempio, ma è interessante. Allora, dopo la scomparsa dell'aereo malese, della Malaysia Airlines, ormai più di una settimana fa, e che l'aereo continua a non trovarsi, allora, la più grande società specializzata in fotografie satellitari, che si chiama Digital Globe, che può contare su 5 satelliti che fotografano la superficie della Terra 75 volte al giorno, ha pubblicato su un sito collegato che si chiama TomNod alcune foto scattate la mattina dopo della scomparsa dell'aereo. Allora, naturalmente la risoluzione della foto, che è una somma di vari scatti, è così elevata, anche se non ho trovato il dato preciso sulla risoluzione di questa fotografia, comunque così elevata che per analizzare pixel per pixel, e dice la società che ogni pixel corrisponde a 50 centimetri sulla Terra, allora è così elevata che servirebbero molte ore di lavoro, oppure il lavoro di molte persone tutte insieme, quello che si chiama crowdsourcing. Allora, ed è quello che è stato fatto sfruttando appunto il lavoro di tante persone che sono collegate su questo sito internet, anche perché non è la prima volta che Digital Globe ha fatto una cosa del genere. Sono state messe a disposizione queste fotografie e le persone hanno cominciato ad analizzare centimetro per centimetro, pixel per pixel potremmo dire, ma anche qualche pixel in più, perché un pixel insomma dice poco. Comunque sono state analizzate finora senza nessun risultato, ammesso che le fotografie siano state fatte nell'area giusta, o meglio quelle pubblicate siano corrispondenti all'area giusta. Comunque è un sono alcune indicazioni interessanti, perché qui stiamo parlando di A, tecnologia satellitare, quindi fotografie che diventano sempre più importanti, fotografie che diventeranno sempre più frequenti e sempre più importanti anche per cose di questo genere, ma per controllare un sacco di situazioni che si vedono molto bene dal cielo e poco bene dalla terra. E queste fotografie diventano sempre più preziose, soprattutto nei primi minuti, nelle prime ore da quando è stato fatto lo scatto. Dopodiché diventano fotografie che possono essere utilizzate per costruire mappe, servizi aggiuntivi sulle mappe, eccetera eccetera. Anche di questo prendiamo nota e riparleremo, perché è un tema interessante, ma qui associamo a questa evoluzione della tecnologia satellitare anche il crowdsourcing, quindi tanta gente che mette a disposizione volontariamente il proprio tempo e che riesce a fare in poco tempo, in poche ore, quello che invece o una macchina o comunque poche persone impiegherebbero, farebbero in molto più tempo. Questo è 2024, tra poco abbiamo le nostre consuete e ormai leggendarie digital news, le notizie più importanti della settimana condensate in pochi minuti, e poi parleremo di security, di sicurezza informatica. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete comunicare con noi, è 2024@radio24.it. A tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Eccoci di nuovo insieme, questo è 2024, il nostro programma va in onda il sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 15 e le 16. oppure la domenica sera dopo le notizie di GR24 delle 23 e fino alla mezzanotte. Ma naturalmente ci trovate anche su internet. Il sabato pomeriggio, subito dopo la trasmissione, è disponibile il file MP3 della nostra trasmissione, quindi lo potete ascoltare in streaming dal nostro sito internet, oppure potete scaricarlo, o è disponibile anche attraverso molte piattaforme come ad esempio iTunes. Ci sono molti nostri ascoltatori che sono abbonati attraverso iTunes e magari lasciano anche qualche commento nella sezione dedicata ai commenti. Questo è 2024, io sono Enrico Pagliarini e proseguiamo e parliamo, prima delle nostre digital news, brevemente di fibra ottica. Sapete che questo è un argomento di cui discutiamo spesso, mettendo in correlazione la diffusione dei collegamenti in banda ultralarga in fibra ottica con la competitività del paese. Se siamo più competitivi, avremmo molti meno problemi a parlare di prodotto interno lordo, la nostra economia crescerebbe molto più velocemente e questo sarebbe un beneficio per tutta la popolazione. Purtroppo questo sono pochi a capirlo, ci sono studi ma anche esempi molto pratici di correlazione. Tra l'altro questo sarebbe un beneficio non solo per le aziende innovative ma per tutte le aziende, perché oramai tutte le aziende in qualche modo, chi più chi meno, deve usare internet. Allora, a proposito di fibra ottica, però, vanno dette alcune cose. Allora, sapete che tutti i progetti per portare fibra direttamente a casa degli utenti, direttamente nell'azienda, sono sostanzialmente congelati. Perché? Perché Telecom Italia ha lanciato già da più di un anno un progetto per portare la fibra ottica direttamente agli armadi stradali. Quindi a questo punto che cosa succede? Mentre ancora oggi e ancora per molto tempo molti cittadini sono collegati ad una DSL e la DSL arriva tramite il doppino di rame dalla centrale fino alla casa o fino all'ufficio, bene, con questo progetto Telecom Italia accorcia il doppino di rame, perché la fibra ottica viene portata non più solo alla centrale ma viene portata all'armadio di strada. Quindi il cavo di rame rimane quello che arriva nella nostra casa, ma non è più lungo alcune decine o centinaia di metri fino alla centrale, ma è più breve perché i cabinet sono molto più distribuiti sul territorio e quindi la tratta è di alcune decine di metri, poche centinaia di metri al massimo. Naturalmente tutto questo porta un beneficio, perché la capacità di trasferimento dei dati anche attraverso quel pezzetto di rame che rimane è molto più veloce. Però va detto una cosa: alcuni operatori dicono che quella è fibra ottica. Allora attenzione, quella non è fibra ottica, quindi è una bugia. Quella è fibra ottica fino ad un certo punto e poi continua ad esserci il rame, perché a casa vostra continua ad esserci il rame. Ci sono pochissime zone d'Italia, Milano è coperta diciamo per l'80% con la fibra direttamente nelle case, pochi altri centri storici di città o alcune aziende in giro per l'Italia, ma nella stragrande maggioranza dei casi quella che alcuni operatori cominciano a chiamare fibra ottica, che tipicamente porta 30 megabit, non è fibra ottica ma è fibra ottica fino ad un certo punto, in tutti i sensi. Questo lo dico perché alcuni ascoltatori scrivono e dicono no, stanno portando la fibra ottica in tutta Italia. Magari. Digital News. La prossima settimana il Parlamento europeo prenderà alcune decisioni importanti in tema di neutralità della rete e di roaming. Il voto in commissione è previsto per il 18 marzo, mentre la probabile ratifica del Parlamento ci sarà il 2 aprile. Poi molto probabilmente ci sarà un passaggio in Consiglio europeo. Vedremo se varrà la pena di parlare di questo tema in base anche alla decisione che verrà presa dal Parlamento europeo. La prossima settimana dovrebbero esserci novità che riguardano i servizi di video streaming. Dovrebbe essere lanciato Sky Online, questa è una nostra previsione, visto che Sky ha già annunciato il servizio, ha detto che sarebbe stato imminente, quindi noi presumiamo che la prossima settimana arrivi. E poi c'è una notizia che riguarda Chromecast, perché almeno in Francia, Germania e Gran Bretagna arriverà la prossima settimana questa chiavetta di Google, una sorta di decoder che permette di vedere contenuti in streaming su un televisore connesso ad internet. Si attacca la porta HDMI e si possono vedere una serie di contenuti. Allora, gli annunci sono stati fatti, o almeno notizie di stampa dicono che in Francia, Germania e Gran Bretagna arriverà, e in non meglio specificati altri paesi europei. Vedremo se l'Italia farà parte di questo gruppo di paesi. Altra novità in arrivo il 31 marzo è il servizio, un altro servizio per vedere film online, che si chiama Anika On Demand. Digital News. È stato presentato il primo bancomat Bitcoin italiano, una macchina nella quale inserire una banconota di euro e che accredita il corrispondente valore in Bitcoin su un proprio conto virtuale. Questo particolare bancomat è già funzionante, naturalmente si tratta solo di un prototipo, è stato realizzato da Coin Capital e Open Picus, due startup incubate presso l'acceleratore di impresa Working Capital di Telecom Italia. Digital News. Spotify cerca in molti modi di allargare la base utenti, come fanno del resto tutti gli operatori della rete internet. Dopo aver rilasciato la versione gratuita del proprio servizio di musica in streaming, ora annuncia un accordo con Vodafone, i cui clienti potranno abbonarsi alla versione premium con uno sconto, 7 euro al mese invece che 10. In questo caso il traffico dati generato da Spotify erode comunque il monte traffico dell'abbonato o di chi ha il piano ricaricabile, mentre in una corrispondente offerta che è molto simile, cioè di Team con Cubo Musica, non viene conteggiato il traffico generato dall'applicazione. Da tempo si parla di prodotti dual boot, cioè con doppio sistema operativo a bordo, già dalla fabbrica. Però finora, nonostante qualche tentativo, non c'è stato alcun prodotto di successo. Asus, che crede in questa proposta, aveva presentato all'inizio dell'anno il Transformer Book Duet TD300, un prodotto in grado di trasformarsi da tablet a notebook, passando da Windows 8 ad Android. Pare però che sia Microsoft che Google non vogliano un prodotto del genere. Entrambe le aziende pensano che il concorrente possa cannibalizzare il mercato dove è ancora leader, cioè il mercato dei PC per Microsoft, quello dei tablet per Android. A questo punto vedremo se arriverà sul mercato un altro terminale annunciato, in questo caso uno smartphone di Huawei, sia con Android che con Windows Phone. Adesso parliamo di sicurezza informatica. È stato presentato e verrà diffuso, distribuito la prossima settimana, il rapporto sulla sicurezza informatica in Italia del CLUSIT, che è l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. Verrà diffuso al Security Summit che si apre appunto il 18 marzo a Milano. Però del consiglio direttivo del CLUSIT fa parte Andrea Zapparoli Manzoni, che saluto, benvenuto a 2024. Grazie. Il rapporto CLUSIT è sicuramente una delle fonti più autorevoli per quanto riguarda il nostro paese. Voi avete analizzato una serie di attacchi informatici, poi entriamo nello specifico e spieghiamo anche di che cosa stiamo parlando, che riguardano tutto il mondo, ma dai quali poi estrapolate alcuni dati, alcune considerazioni anche per quanto riguarda il nostro paese, anche per quanto riguarda l'Italia, giusto? Esattamente. Naturalmente, nella nostra raccolta di informazioni relative ad attacchi informatici gravi, quindi tipicamente noi classifichiamo i più gravi in assoluto di ciascun anno nella nostra ricerca, noi osserviamo che c'è una prevalenza sospetta di incidenti esteri e una mancanza di informazioni relativa agli incidenti italiani. Questo per una serie di motivi. Noi supponiamo che questo fenomeno sia dovuto da un lato al fatto che le società italiane, le aziende, le organizzazioni in genere sono poco strutturate per accorgersi di essere state attaccate, quindi c'è una carenza di dati dovuta a questo, dall'altro perché in Italia si tende, se non è strettamente necessario e o inevitabile, a non pubblicizzare il fatto che si è stati attaccati, il che naturalmente rappresenta un problema perché ci toglie informazioni preziosissime per capire gli attaccanti cosa vogliono, come si comportano, e di conseguenza ci toglie la possibilità di contrastarli nel modo migliore. Certo, se noi pensiamo al settore sanitario, naturalmente buona parte, se non tutta la prevenzione viene fatta ed è stata fatta grazie alle informazioni che vengono raccolte. Assolutamente. Vale la stessa cosa più o meno in questo settore? Io, semplificando, ma cercando di trasmettere la sensazione del Clusit su questo fenomeno di crescente insicurezza informatica, arrivo a dire che ormai sta diventando un problema di salute pubblica. Quindi ha delle similitudini con la salute, per esempio, certo, gli aspetti della salute. Certo. Spieghiamolo meglio questo concetto, perché è importante ed è interessante. Cioè, voi dite la mancanza di informazioni, quindi la mancanza anche di capacità di reagire in modo adeguato a livello di sistema paese, a livello di sistema industriale. Cioè, questo è proprio un problema che le associazioni del commercio, dell'industria in generale, dovrebbero cominciare in modo molto serio, costante, strutturato a studiare, perché si tratta di... Io ricordo che ad esempio l'anno scorso avevate scritto nel rapporto: stiamo assistendo al più grande furto, al più grande trasferimento di ricchezza della storia, perché qua stiamo parlando anche di un sistema industriale che viene attaccato. E che cosa vengono rubati? Brevetti, soldi. Brevetti, metodi, informazioni sensibili di business legate alla produzione, legate alla clientela, legate alle forniture di materie prime, tutte informazioni che possono essere usate per fare concorrenza sleale. Allora, nel rapporto, poi magari ci torniamo a questi punti, nel rapporto di quest'anno voi avete analizzato 2800 incidenti che sono avvenuti negli ultimi 3 anni, che sono gli anni in cui è uscito il rapporto. Il cybercrime rappresenta la metà di questi attacchi. Per cybercrime che cosa intendiamo? Intendiamo una categoria di attaccanti che ha delle finalità precise, che sono sostanzialmente quelle di ottenere un guadagno economico immediato, senza preoccuparsi particolarmente di risultare invisibile nella sua azione. Quindi stiamo parlando di un ecosistema molto complesso, estremamente ramificato e articolato, all'interno del quale i vari attori si scambiano servizi, c'è un'economia floridissima underground. Tra questi gli hackers, come è nella diciamo mitologia hollywoodiana, sono una quota assolutamente minoritaria. Sono produttori di alcuni strumenti o di alcuni software, che poi vengono usati da soggetti che sono a tutti gli effetti dei criminali, non certo, sono degli hacker. Quindi la metà di ormai... questi attacchi, e possiamo, diciamo, anche se appunto tu mi dici sull'Italia abbiamo meno dati, possiamo dire che grosso modo la stessa cosa vale per il nostro paese? Senz'altro, infatti abbiamo segnalato nel rapporto che è particolarmente diciamo sospetto il fatto che sul cybercrime nel mondo abbiamo una percentuale intorno al 50% e in Italia ce l'abbiamo intorno al 17%. Significa che non conosciamo tante informazioni. Che è molto strano. È molto improbabile che a parità di tutte le condizioni al contorno l'Italia abbia percentuali differenti. Senti. Oltre al cybercrime, voi sottolineate la crescita dell'attivismo digitale e anche dello spionaggio, che sono cose un po' diverse, anche se sfruttano sempre capacità tecniche per penetrare nei sistemi informatici. Ne riparliamo tra poco. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, ringrazio Anita Panizza che ci aiuta in redazione durante la settimana, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Stiamo parlando di sicurezza informatica, tema estremamente importante, soprattutto per le aziende, ma non solo per le aziende. Ne stiamo parlando con Andrea Zapparoli Manzoni, che fa parte del consiglio direttivo del Clusit, l'associazione per la sicurezza informatica. Andrea, come del resto tutti i membri che fanno parte del Clusit, è un esperto, un grande esperto di sicurezza informatica, se ne occupa da 15 e forse più anni. Allora, voi abbiamo parlato di cybercrime, c'è anche l'attivismo digitale. Che cosa intendiamo in questo caso? Qui stiamo parlando di gruppi antagonisti di estrazioni diversissime, che in alcuni casi fanno riferimento alla etichetta, io la definisco così, Anonymous, sì, sicuramente sì, molti ne hanno sentito parlare, ma in realtà non c'è un'organizzazione centrale, non c'è una regia unica, sono gruppi che su tematiche di particolare interesse per loro provano a protestare realizzando azioni eclatanti con strumenti via internet e con strumenti digitali, quindi tipicamente realizzano quelli che si chiamano defacement, cioè modificano le home page dei siti web pubblicando dei proclami o pubblicando le loro ragioni, piuttosto che utilizzano tecniche di denial of service, quindi generano molto traffico verso un sistema informatico mandandolo KO, mandandolo sostanzialmente KO, sì. Oppure fanno, nei casi più eclatanti, che risultano anche quelli più fastidiosi per i bersagli, delle intrusioni informatiche, rubano dei dati e poi li pubblicano, tipicamente per sbugiardare o comunque mettere in difficoltà la vittima. Okay. Questo è successo in Italia molte volte l'anno scorso. Tipo? Sono state colpite la polizia, i sindacati di polizia, sono stati colpiti sono stati colpiti il sito di Renzi. Sì, da quale sono state sottratte centinaia di migliaia di credenziali e di dati degli iscritti registrati al sito. Quindi ci sono poi un'infinita varietà di casistiche, però l'activism sostanzialmente verte su questo tipo di iniziative, sì, molto rumorose, tese a sostenere una qualche causa, qualcuno per finalità ambientaliste, qualcuno per finalità politiche, eccetera. Allora, voi rilevate che quest'anno è cresciuto del 22,5%, invece cresce del 131% il cyber espionage, quindi lo spionaggio digitale. Sì. Che differenza c'è tra lo spionaggio digitale e il cybercrime? Allora, spesso vengono usate almeno in parte tecniche analoghe, sì, perché sostanzialmente le vulnerabilità dei bersagli sono le stesse che vengono sfruttate. Quello che cambia sostanzialmente, oltre agli scopi, sono i tempi, perché normalmente le attività di cyberespionage si realizzano lungo periodi medio-lunghi, in modalità estremamente silenziosa, perché ovviamente l'attaccante ha tutto il vantaggio nel non essere rilevato e nel rimanere all'interno dei sistemi colpiti il più a lungo possibile. Ci sono casi di attacchi di cyberespionage dove le vittime sono state compromesse e hanno subito furti di informazioni per 2-3 anni di fila prima di accorgersi. Esatto, nessuno se n'era accorto. Esatto, quindi sono dei professionisti, possono essere sponsorizzati da governi, possono essere dei mercenari che prendono queste informazioni e poi le rivendono al miglior offerente, possono essere dei cybercriminali che sfruttano le loro capacità per, invece che fare soldi cash veloci, come dicevamo prima, rubare dati che poi possono usare per tutta una serie di finalità che possono andare dal ricatto alla diffusione con finalità maliziose o alla rivendita su un mercato nero vastissimo, nel famoso, a me non piace questa espressione, ma ormai è di uso comune, nel famoso deep web, no? Dove ci sono tutti questi forum e tutti questi sistemi. Che esiste assolutamente, che rappresenta la stragrande maggioranza dei sistemi che stanno in realtà su internet. Cioè, noi vediamo l'internet superficiale, noi vediamo il web che rappresenta probabilmente un 30% del totale. E persone come te che si occupano di sicurezza informatica, diciamo, tutte le persone che a vario titolo si occupano di sicurezza informatica frequentano questi luoghi? Cioè, un po' come dire, la polizia ogni tanto si infiltra, anzi non ogni tanto, spesso si infiltra nelle organizzazioni criminali per riuscire poi a distruggerle dall'interno. Allora, diciamo questo, è evidente che per ragioni di studio e di comprensione dei fenomeni è necessario ogni tanto scendere, uso questa metafora, nel dark web, nel deep web, per capire di cosa stiamo parlando, anche perché le evoluzioni sono rapidissime. Faccio un esempio, durante l'anno scorso c'è stata un'impennata del valore della moneta virtuale Bitcoin. Ah sì. Il cybercrime ha reagito con una velocità spaventosa, che è loro tipica, il dinamismo estremo. Il che rende le difese particolarmente complicate, perché loro cambiano continuamente modelli, strumenti, eccetera, no? Loro che cosa hanno fatto? Hanno iniziato a diffondere quantità spaventose di malware che hanno come scopo quello di, infettata una macchina, produrre bitcoin sfruttando le risorse di quella macchina. Sì, perché ricordiamo che il bitcoin esiste proprio un algoritmo per coniare la moneta, esatto, digitale. Coniare un bitcoin, sì, sì, richiede una quantità, a parità di potenza di calcolo di un sistema, una certa quantità di tempo e un certo consumo di elettricità. Esatto. Loro hanno semplicemente deciso in modo parassitario di sfruttare le macchine altrui, ma a decine o centinaia di migliaia. Però la cosa sorprendente è stato analizzare il cambiamento all'interno di questi forum, di questi sistemi dove questi soggetti si scambiano informazioni e fanno affari tra loro, il cambiamento repentino legato all'attualità, cioè al fatto che Bitcoin da $100 l'uno era arrivata a $1200 l'uno. Sì. Esattamente come poi si sono attrezzati velocissimamente per andare a colpire quei siti di, come si dice, exchange, sì, di Bitcoin, come Mt. Gox recentemente e altri, che si erano trovati in brevissimo tempo a custodire centinaia di milioni di dollari di controvalore in Bitcoin. Senti, uno dei, non so se è un problema, dove arriva il dibattito da questo punto di vista, uno dei problemi della inefficacia a volte della reazione, cioè della protezione da questi fenomeni, è anche dovuto al fatto che i criminali sono velocissimi, le aziende in modo particolare, gli stati a maggior ragione sono molto lenti ad adattarsi a questo crimine. Questo sicuramente è uno dei motivi perché c'è questa, per cui oggi c'è questa asimmetria crescente, sì, tra l'efficacia degli attaccanti e la capacità dei difensori di contrastarli. Per questo motivo io e altri colleghi siamo convinti, anzi predichiamo da qualche anno ormai, che sia necessario operare più incisivamente sul lato della prevenzione. Quando si fa sicurezza reattiva, cioè si aspetta l'attacco per cercare di fare qualcosa, nella maggior parte dei casi si è già andati in troppo difficoltà. Tardi. Bisognerebbe, sì, fare molta più prevenzione, e qua ritorno al tema iniziale: avere informazioni pubbliche, ufficiali su questi fenomeni aiuterebbe moltissimo sia le aziende, sia le istituzioni, sia i privati, sia noi esperti di sicurezza informatica a calibrare nel modo migliore le difese. Oggi invece i budget vengono spalmati in modo indifferenziato, cercando di difendersi in qualche modo da tutto. Sì. Questo non è corretto, perché un certo tipo di bersaglio in realtà sarà fatto oggetto di attacchi da un certo tipo di attaccante che si comporta in un certo modo. Saperlo, sì, sì, consentirebbe di ottimizzare molto di più la spesa in senti, security. Queste informazioni dovrebbero essere obbligatorie per legge, perché soprattutto negli Stati Uniti ci sono molti obblighi, molte informazioni vengono date perché è obbligatorio. Allora, questo è un tema che ovviamente viene discusso ad altissimo livello, a livello di comunità europea per esempio, c'è allo studio una direttiva che imporrebbe a certi tipi di aziende, qualora ci sia un data breach, cioè una diffusione fraudolenta o anche per negligenza, sì, quindi non necessariamente attacchi, anche solo incidenti, comunque quando ci fosse un data breach certi tipi di aziende, dati, soprattutto, sì, se si tratta di dati personali a maggior ragione sensibili, dovrebbero dichiararlo. Io penso che questo dovrebbe avvenire anche per altri tipi di soggetti che non trattano dati personali sensibili, per esempio le infrastrutture critiche, per esempio il sistema finanziario bancario, per esempio chi è detentore di brevetti importanti, perché è evidente, almeno ai miei occhi, che se un'azienda ha subito il furto dei suoi brevetti, è evidente che se il mercato non lo sa, dà una valutazione di quell'azienda che non corrisponde alla verità. Al vero, chiaro, per chiaro, esempio. Chiaro. Sempre per confermare una cosa che sentiamo, devo dire, non tanto spesso, perché io penso che di questi temi dovremmo parlare in tutto il paese molto più spesso, però ogni tanto si dice appunto sui brevetti che c'è il furto dei brevetti. Queste cose accadono spesso o sono fenomeni rari? In questo momento sono una delle attività col migliore ritorno di investimento sulla faccia della terra. Di conseguenza attirano una quantità crescente di soggetti che si mettono in affari e che fanno questo per mestiere. La facilità di questo tipo di azioni, il rischio molto basso per chi le compie, messi insieme creano un mix micidiale, quindi, sì, con una velocità spaventosa che noi abbiamo misurato in questi 3 anni, tant'è vero che prima dicevamo c'è stata una crescita del cyberspionage di 131% anno su anno. La velocità spaventosa con la quale questi fenomeni si muovono stanno cogliendo impreparati e con la guardia abbassata tutte le organizzazioni di qualsiasi dimensione. Io in Italia in particolare penso alle numerosissime PMI nostre, magari ad alto valore aggiunto tecnologico o comunque che hanno diciamo proprietà intellettuale da proteggere, e che però essendo PMI e non essendosi rese conto ancora bene del fenomeno hanno dei livelli di sicurezza informatica che non corrispondono assolutamente al livello e alla gravità delle minacce. In questo caso l'utilizzo di servizi cloud potrebbe contribuire ad aumentare il livello di sicurezza? Allora, nelle tendenze 2014 e oltre che noi abbiamo voluto segnalare nel rapporto, questa è una e sicuramente non la meno importante. La possibilità di utilizzare strumenti o soluzioni di sicurezza di vario tipo, per esempio di gestione dell'identità, di autenticazione, di protezione dal malware, di protezione dai attacchi denial of service, quindi ci sono poi tante aree. Certo. Però diciamo, generalizzando, l'utilizzo di servizi di security in cloud sicuramente consente anche alle aziende medio-piccole di accedere a tecnologie di ultima generazione, non dovendo mettersele in casa e non dovendo fare un investimento in anche perché a volte questo investimento non personale. È possibile, cioè non esatto, è, perché esatto. Spesso altrimenti l'investimento non sarebbe possibile. Quindi noi lo vediamo come un fatto positivo. Bene Andrea, adesso per noi c'è una pausa, un minuto poi riprendiamo. 2024 disponibile anche in podcast su radio24.it. 2024. Questa è l'ultima parte di 2024, stiamo parlando di sicurezza informatica con Andrea Zapparoli Manzoni, che fa parte del consiglio direttivo del CLUSIT. Alcune considerazioni, naturalmente solo una parte dei numeri e dei concetti che sono stati espressi in questa edizione del rapporto sulla sicurezza informatica del CLUSIT, che però potrete visionare a partire dal 18 di marzo. Il CLUSIT lo distribuirà al Security Summit, oppure inviando una email al CLUSIT è possibile ricevere il rapporto sulla sicurezza informatica. Abbiamo detto che è molto importante avere dati sui quali fare elaborazioni, dati che possono essere studiati. Allora va ringraziata Fastweb, che ha messo a disposizione del CLUSIT i dati relativi agli attacchi informatici registrati sulla propria rete, e tutti gli operatori dovrebbero fare questo, e naturalmente anche almeno le aziende più importanti. Più dati ci sono, più la capacità di analisi e naturalmente anche di reagire agli attacchi informatici aumenta anche nel nostro paese. Questo l'abbiamo detto poco fa. Adesso invece, Andrea, vorrei che tu raccontassi un fenomeno che state osservando già da un po' di tempo, cioè che anche laddove le aziende siano in grado di proteggersi adeguatamente, una delle ultime tecniche è quella di prendere di mira non l'azienda ma il fornitore, e da lì poi arrivare nell'azienda. Spiega, perché mi sembra interessante. Sì, e questo è un trend che noi abbiamo voluto sottolineare, perché con preoccupazione lo vediamo crescere molto velocemente. In sostanza quello che accade è che oggi l'ecosistema di fornitori, outsourcer, che vive intorno alle organizzazioni medio-grandi è estremamente articolato e magari è composto da fornitori che invece sono in realtà medio piccole, super specializzate. Sì, però sono collegati ad internet, attaccati. Naturalmente questi svolgono spesso attività di manutenzione o di controllo da remoto, e per fare questa cosa la soluzione tecnologicamente parlando più logica è quella di fornirli di connessioni, si dice VPN, quindi di connessioni dirette, cifrate, ma che una volta all'interno del perimetro del cliente consentono di andare sulle macchine che vanno gestite. Quello che succede è che gli attaccanti, che tendono sempre a massimizzare i risultati e minimizzare gli sforzi, stanno iniziando a colpire il punto meno debole, il punto più debole. Quindi succede più debole. Vi faccio un po' di esempi: che magari si colpisce lo studio legale, magari anche prestigioso, che però da un punto di vista della sicurezza informatica non è, diciamo, aggiornato. Ma fammi l'esempio che è successo negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti recentemente, sotto Natale, c'è stato un furto di 40 e passa milioni di carte di credito da una grande realtà della distribuzione organizzata, Target. E l'indagine che si è svolta ha mostrato che sono stati infettati i POS delle casse dei punti vendita, ma il vettore di attacco è stata una società che nel caso specifico fa la manutenzione dei banchi frigo. Che aveva un collegamento a internet. E che ha un collegamento diretto, perché dalla sua sede i suoi esperti vanno a fare le regolazioni e la manutenzione ai banchi frigo, che come moltissimi altri oggetti oggi sono anche dei computer. Sì, e quindi si possono comandare e controllare. E quindi è molto più facile colpire questi soggetti più deboli e poi da lì, come salmoni, risalire la corrente e andare... Allora, una cosa che abbiamo detto anche in altre occasioni, la possiamo ribadire, ma penso che qui tu possa rispondere con un sì, il settore banche e in generale la finanza è uno dei più attaccati. Beh, naturalmente, sia anche perché è attaccato da diverse tipologie di attaccanti. Anche lì ci sono i soldi, se vuoi i soldi. Quindi, innanzitutto perché ci sono i soldi e poi perché è appetibile sia dal punto di vista del cybercrime, per fare cash velocemente, come dicevamo prima, attaccando gli utenti di questi servizi, tipicamente di home banking o addirittura oggi di mobile banking, no? Sì. E purtroppo è ancora molto facile, ahimè, mi duole dirlo, ma è la realtà dei fatti, realizzare questi attacchi. Su scala industriale, quindi vengono colpite centinaia di migliaia di persone alla volta, poi il tasso di successo di questi attacchi è anche abbastanza basso, perché ci sono molte variabili. Però su milioni di casi, su milioni di sistemi compromessi si riesce a estrarre soldi da una quantità significativa. E questo è un aspetto. E poi ci sono quelli che invece vanno a cercare informazioni dentro soprattutto le realtà finanziarie. E queste hanno un valore altissimo perché consentono di sapere in anticipo dati estremamente delicati. Chiudiamo con i social network, perché di social network parliamo tutte le settimane, è un fenomeno che sta crescendo in tutte le dimensioni e immagino che chi fa il pirata e il criminale digitale sia interessato anche ai social network. Guarda, su questo tema io sono considerato uno dei principali, delle principali Cassandre, nel senso che ho iniziato a occuparmi di questo argomento in tempi veramente remotissimi, che fa sorridere, cioè nel 2008-2009. Sentendomi dare del matto spesso e volentieri, in realtà si è verificato quello che era logico che succedesse, cioè i social network per la loro natura di piattaforme di scambio veloce e facile di messaggi, informazioni, immagini, documenti allegati, qualsiasi cosa, da un lato, per il grandissimo numero di utenti che a questo punto hanno raccolto e per il fatto che questi utenti usano i social con un atteggiamento, diciamo, a dir poco allegro, sì. No? Sono abituati a cliccare qualsiasi cosa e a seguire l'estro del momento, sono un ottimo bersaglio. In più, dal punto di vista degli attaccanti, usare i social come amplificatore dei loro attacchi è sostanzialmente del tutto gratuito. Sì. Conviene molto di più fare spam, faccio un esempio pratico, usando i social network, che alla vecchia maniera mandando miliardi di mail che poi vengono bloccate. Fammi l'esempio di come si fa. Beh, allora, le possibili tipi di attacchi, i tipi di reati che si compiono sui social sono oggi sostanzialmente incalcolabili. Considerate che ci sono sia attacchi che sono reati informatici, sia attacchi che invece sono reati, punto, to cure, per esempio lo stalking, per esempio... E l'harassment, il bullismo, eccetera. Sì, no? Sì, okay. Certo. Poi invece c'è l'intrusione nei sistemi veicolata tramite social. Quindi si può fare furto d'identità, si può fare phishing mirato. Sì, però un caso, diciamo, anche. Ci sono dei casi estremamente eclatanti, ne riporto due. Sì. Sono molto interessanti entrambi. In un caso, l'account Twitter di una primaria agenzia di stampa, che è la Associated Press, è stato compromesso da un gruppo di activist nazionalisti siriani. Pensa che complicazione. Quindi questi sono sostenitori del regime di Assad. In Siria c'è un gruppo di attivisti digitali molto... Esatto, si chiamano SEA, Syrian Electronic Army. Sì. Che poi abbiano aiutini, magari anche stranieri, è un tema tipo che Russia, non trattiamo oggi. Però non lo sappiamo, è plausibile. Sì. Comunque sta di fatto che sono bravi. E Devo dire, con tecniche non sofisticate ma con una grandissima precisione, hanno colpito moltissimi, per esempio, player del settore media. Quindi tu dici... Hanno colpito l'Associated Press e hanno fatto un tweet a nome dell'Associated Press dicendo: esplosione alla Casa Bianca, Obama ferito. Sì, sì, quindi tu dici, spesso chi utilizza un account anche di una grossissima azienda, di un social network, non prende delle precauzioni così importanti e quindi attaccarlo è molto facile. Sì, da un lato, cosa che è successa anche per Facebook. È successa su Facebook infinite volte. C'è anche un caso italiano nel quale, anche qui è molto interessante l'analisi, dei cybercriminali egiziani, il che significa che si stanno diffondendo queste capacità anche al di fuori del mondo occidentale o est europeo o dell'estremo oriente. Questi sono nordafricani. Colpiscono una importante azienda italiana rubando le credenziali di amministrazione delle sue pagine Facebook e iniziando a parlare, chiudendo, diciamo, i responsabili dell'azienda fuori dall'account, perché hanno sostituito l'email, password, eccetera. E a quel punto hanno iniziato a parlare a nome dell'azienda, a, nel loro caso, 200.000 friends che hanno sulle pagine Facebook, e hanno iniziato a pubblicare degli annunci apparentemente plausibili, che però riportavano dei link cliccando i quali ci si infettava il computer. Questo è il gioco fatto. Tipico attacco che si fa sui social ai brand importanti. Si attacca l'azienda non per attaccare lei, ma per attaccare i suoi utenti. Bene, io ringrazio Andrea Zapparoli Manzoni per essere stato con noi. Grazie anche per il lavoro che fa il Clusit, che avete fatto realizzando anche per quest'anno il rapporto Clusit, che è sicuramente, per chi si occupa del settore, una lettura molto interessante. Quindi, insomma, grazie anche per questo, a presto e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Adesso concludiamo questa puntata con una breve anticipazione di quello che troveremo domani su Nova, il Sole 24 Ore, il settimanale di innovazione del Sole 24 Ore. In redazione c'è anche Pierangelo Soldavini. Pierangelo, bentornato a 2024. Buongiorno a tutti. Allora, come sempre partiamo dalla copertina. Allora, qual è il tema che avete scelto questa settimana? Dunque, è un tema dal nome un po' complicato che può far paura. Quindi, che è l'epigenomica. Epigenomica. Però, detto in parole povere, è diciamo la distinzione tra ereditarietà e ambiente, cioè quanto della nostra, del nostro corpo, della nostra cultura, del nostro modo di fare e del nostro, dei nostri geni dipende da come siamo fatti noi alla nascita e quanto assorbiamo dalle nostre esperienze, dalla cultura che ci circonda, così, perché dalle ricerche fatte risulta che, oltre ai geni di cui siamo fatti, che sono configurati in maniera abbastanza stabile fin dalla nascita, ci sono degli epigeni che sono delle cellule che sono attorno ai geni, che sono condizionate dall'esperienza che facciamo nel corso della vita. E quindi si è partito a studiare questo tipo di cellule per capire quanto influiscono sul nostro comportamento. Ci sono degli studi internazionali che stanno facendo, raccogliendo dati, perché evidentemente è un dibattito, una ricerca che può portare a grosse conseguenze. Quindi potremmo dire che, a parità di tra due persone, diciamo, simili dal punto di vista genetico, cambiano molto poi questi epigeni in base al luogo dove si trovano. È base al luogo, alla cultura, alle esperienze fatte, a tutto quello che si vive, che, insomma, direi che è abbastanza naturale pensare a questa cosa. Però adesso ci sono anche i dati scientifici che la corroborano. Allora, a questo punto però parliamo anche di cose più vicine a noi. Ma senz'altro, nel paginone andiamo ad affrontare, a raccontare un po' le nuove frontiere della telemedicina, per cui cose più vicine, più concrete. Ci sono, da una parte, apparecchi, device che controllano sempre di più e possono monitorare il nostro corpo, e soprattutto con l'internet delle cose, cioè le cose intelligenti connesse alla rete, ci permettono di dialogare continuamente con l'ospedale, con i medici, che ci possono tenere sotto controllo su una variante infinita di dati, che vanno dal diabete alla pressione, alla frequenza cardiaca. Sì, l'obiettivo finale è quello di cercare di tenere il più lontano il paziente dall'ospedale, sia in termini psicologici, perché evidentemente che l'ospedalizzazione, cioè, sto meglio a casa che all'ospedale, sto meglio a casa, cioè, che in ospedale, sì. E dall'altra parte perché tutto questo è una spesa enorme. Basta pensare, è un dato scioccante, sono 7.000 miliardi di dollari che ogni anno si spendono nel mondo per la sanità, ed è una spesa che andrà ad aumentare, sì. Per vari motivi, sia perché la popolazione sta diventando più anziana, sia perché le cure sono sempre più affinate. Quindi tenere il paziente lontano dall'ospedale, monitorarlo a casa, e ci sono delle cose veramente incredibili e interessanti, perché che ti permettono in qualsiasi momento di essere sotto controllo, di essere in contatto col tuo medico, ti dai consigli sulla base del esatto, cose che insomma stanno arrivando in modo piuttosto prepotente. Grazie, a presto, buon lavoro. Grazie a voi. E così concludiamo questa puntata di 2024. Come sempre, grazie per la vostra attenzione, per aver scaricato questa che è la versione podcast o per averla ascoltata in streaming attraverso i nostri sistemi, la nostra applicazione, o meglio le nostre applicazioni, e anche il nostro sito internet. Mi dicevano pochi giorni fa i nostri tecnici che abbiamo 6 streaming per varie tipologie di applicazioni web, eccetera eccetera. Dunque, volevo fare solo una considerazione, questa la faccio solo per i nostri amici che ci ascoltano in podcast, oltre che anche in questa puntata avervi offerto l'intervista ad Andrea Zapparoli Manzoni in versione integrale, quindi solo disponibile per chi ha scaricato il podcast. Dicevo, una considerazione su Popcorn Time. Alcuni di voi si chiederanno che cos'è Popcorn Time, o meglio che cos'era Popcorn Time. Alcuni ragazzi di Buenos Aires, argentini, la scorsa settimana hanno pubblicato un'applicazione, un client che si basa sul protocollo Torrent. Ci lavoravano già da un po' di tempo, diciamo che i più vicini a questo mondo conoscevano già il prodotto. Comunque hanno pubblicato questo client con il quale, attraverso appunto il protocollo Torrent, si potevano vedere film in streaming. Allora, devo dire che il client, questo servizio, era fatto molto bene tecnologicamente e, come si dice, con una user experience eccezionale. Poi non si sa bene se abbiano ricevuto delle pressioni o addirittura una denuncia formale, o se, visto il fenomeno globale, perché questo client è stato scaricato praticamente in tutto il mondo nel giro di pochissimi giorni, ha fatto il giro del mondo, soprattutto proprio perché era costruito molto bene, forse alcuni dicono che i ragazzi abbiano preso un po' di paura, hanno detto no, forse è meglio che chiudiamo tutto. Tuttavia sottolineano nel messaggio, poi potete andare su Get Popcorn Time, dove l'ultima parola, la destinazione è .me, quindi getpopcornt.me, insomma facilmente rintracciabile, ritrovabile. Scrivono nel loro messaggio che tuttavia, nonostante tutto quello che si dice, tutto quello che si di quello di cui si discute negli ultimi tempi relativamente alla pirateria, dicono la pirateria è prevalentemente un problema di chi detiene i contenuti, perché ancora oggi utilizza e si basa, crea un mercato su regole che sono oramai vecchie. Questo è un po' il succo del messaggio che loro lanciano sul web, e in buona parte hanno ragione. Dopodiché non è giustificata la pirateria in nessun caso, però è anche vero che molti ascoltatori scrivono, e spesso, come dargli torto, io sarei anche disponibile a pagare, ma non trovo un servizio che mi dia quello che sto cercando. E questo vale soprattutto e molto nel campo del video. Direi che sulla musica ormai non c'è nessuna giustificazione. Sulla musica ci sono servizi eccezionali di streaming dove si trovano milioni di brani, e quindi non ci sono più motivi per piratare. Devo anche dire che questi servizi sono a volte gratuiti, a volte con degli abbonamenti molto molto competitivi e molto bassi, quindi insomma in quel caso non c'è veramente nessuna giustificazione. Per quanto riguarda il video, penso che le aziende del video debbano fare ancora molto, soprattutto come user experience, perché abbiamo visto lanciare alcuni servizi recentemente, ma devo dire che questi ragazzi di Popcorn Time hanno fatto un lavoro eccezionale. Non ultimo il nome che gli hanno dato, molto simpatico, Popcorn Time, perfetto, una delle azioni tipiche quando si va, o comunque per raccontare l'esperienza di quando uno è al cinema, insomma, i popcorn fanno parte dell'esperienza cinematografica del cliente, dello spettatore che va al cinema. L'hanno chiamato insomma in un modo molto divertente, quindi tanto di cappello sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista di marketing, e molte aziende che hanno tanti tecnici e tanti uffici marketing dovrebbero secondo me osservare il fenomeno con interesse. Comunque tutto chiuso, poi vedremo, visto che il protocollo è un protocollo open source, vedremo poi se qualcuno prenderà questo protocollo e lo riprodurrà magari con un altro servizio, magari uno che sta nel Belize o in Costa d'Avorio piuttosto che in Argentina, che forse è più raggiungibile rispetto ad altri stati. Bene, chiudiamo questa puntata, ancora un ringraziamento, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Vi do appuntamento fra 7 giorni. 2024.